L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 7 minuti dopo le 12 in diretta qui da Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, delle opportunità, delle possibilità, dei progetti e delle storie. Le coordinate virtuali euronetplus.eu è il portale del network al quale apparteniamo, portale che come sempre vi invito a visitare, ci sono tante inchieste, tanti approfondimenti in tante lingue diverse. Euronet Plus R24 oppure il mio account personale Federico Taddia, Twitter e Facebook, lì i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Come ogni settimana, tanti ospiti, tante persone, tante voci. Oggi partiamo parlando di protezione civile. These accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional. Landscapes, they pass on me. The little gets old and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. Favorire la consapevolezza della prevenzione delle catastrofi per i gruppi vulnerabili. Questo è il cuore del progetto europeo ADAPT. Si è concluso pochi giorni fa, l'8 febbraio, nello specifico, con un evento che si è tenuto a Bruxelles. Con noi per parlarne Paolo Rebecchi, responsabile regionale della protezione civile di ANPAS Emilia-Romagna, che era appunto presente al Parlamento europeo. Buongiorno Rebecchi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e grazie. Che cos'è ADAPT e cosa avete fatto in questi anni di progetto? Ma dunque, innanzitutto ADAPT parte da lontano, esattamente il primo incontro istituzionale si è tenuto il 26 gennaio 2015 a Francoforte. E ADAPT è un progetto essenzialmente di prevenzione delle catastrofi rivolto a quelli che sono i cosiddetti gruppi vulnerabili. Cosa si intende per gruppo vulnerabile? I cittadini, gli abitanti? Allora, per gruppo vulnerabile all'interno della popolazione, diciamo, sono quelle classi diciamo legate vicine alle disabilità principali, quindi disabili, anziani, persone che ovviamente in caso di situazioni emergenziali sarebbero quelle diciamo più sensibili in caso di evacuazione e di soccorso. Certo. Certo. Rebecchi, la prima domanda è questa: non c'è niente di più territoriale e local di una catastrofe, no? Di un evento climatico, di un'alluvione, di un terremoto. Cosa significa su eventi così localizzati ragionare in chiave europea? Beh, sicuramente è, almeno per la nostra organizzazione, una nuova frontiera, un nuovo modo diciamo di apprendere e di esportare, cioè spiegandomi meglio. Ovviamente quando si dice che tutto il mondo è paese, lo è ancora di più quando si verificano delle emergenze. Se noi guardiamo la geografia in ambito internazionale, sappiamo che ci sono zone che sono state colpite da terremoti sicuramente molto molto maggiori e persone che hanno studiato anche i tempi di reazioni, ma soprattutto la prevenzione. L'Europa, che è particolarmente sensibile a quelli che sono i temi sociali e ai temi di intervento, ha dato la possibilità a noi e ad altri partner di lavorare insieme su diversi progetti. ADAPT è proprio uno di questi che vede coinvolti diversi partner internazionali, proprio per progettare quella che può essere una buona prevenzione, utile poi a fare un buon intervento. Buone pratiche quindi da analizzare, da condividere, da sperimentare. Quello che è successo l'8 febbraio è un punto d'arrivo o un punto di partenza? Ma sicuramente dal punto di vista teorico è un punto d'arrivo, nel senso che si è fatto sintesi di questo progetto che vede come partner appunto ANPAS, White Cross Bolzano, SB Germany, Samaritan Danimarca e poi l'Università di Tor Vergata di Roma. Concluso la parte di progettualità e di sperimentazione, adesso ovviamente sarà nostro compito portare una ricaduta operativa su quelli che sono i comuni e su quelli che sono poi i territori della nostra nazione. Certo, per ovvi motivi abbiamo visto la protezione civile in azione troppo spesso in sì. questi mesi, in questi anni. A livello europeo abbiamo qualcosa da imparare o abbiamo qualcosa da insegnare? Ma io credo in entrambi gli aspetti. Sicuramente noi dobbiamo implementare la prevenzione. La prevenzione che passa non solo in ambito e a livello istituzionale, ma anche e soprattutto del cittadino. Noi abbiamo sviluppato dei progetti in Italia sempre con diversi partner, perché non occorre ampliare i propri orizzonti, la propria mentalità. Abbiamo lavorato su un progetto particolare con anche INGV e altri partner che si chiama Io Non Rischio. È un progetto che viene fatto nelle varie piazze italiane per riuscire a sensibilizzare proprio il singolo cittadino. Certe volte delle piccole e buone prassi possono fare veramente molto. Noi dobbiamo abituarci soprattutto alla mentalità di prevenire, non di intervento immediatamente dopo che si è verificato qualcosa. Su quello siamo bravi, su quello siamo estremamente operativi. In alcune situazioni il sistema di protezione civile di cui noi facciamo parte viene criticato, però difficilmente ci si domanda poi realmente che cosa avviene in questi scenari estremamente pesanti. Quindi noi dal nostro canto abbiamo sicuramente un'ottima capacità di reazione. adapt.samaritanlinettainternational.eu, questo è il portale per conoscere nello specifico il progetto ADAPT. Ringraziamo Paolo Rebecchi, responsabile regionale della protezione civile di ANPAS Emilia Romagna. Buongiorno Rebecchi, buon sabato. Grazie a voi e grazie ancora. Noi ci fermiamo, è il momento di un Europost-it, una delle nostre segnalazioni, poi il traffico e dopo ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Servizio volontario europeo a Salisburgo. Sei un giovane europeo tra i 18 e i 30 anni e sei alla ricerca di un'esperienza internazionale? L'Associazione Scambi Europei, per conto di un'organizzazione austriaca, è alla ricerca di due volontari che vogliano vivere un'esperienza dall'alto valore formativo a Salisburgo, presso il Senioren Residence Mirabel, confortevole complesso residenziale per anziani. I volontari dovranno assistere il personale nell'organizzazione della struttura e nella pianificazione giornaliera delle attività previste per i residenti, tra le quali vi sono escursioni, gruppi di discussione, design creativo, giochi ed eventi. Le candidature dovranno essere inviate entro il 15 febbraio, seguendo le istruzioni riportate dal sito scambieuropei.info. L'altra Europa. This is your traveling song, and I hope it sees you well through train rides and hotels. This is your traveling song, and on the window of the train, with your finger right my name. Well, I could sell my watch and buy a ticket, but my dear, I feel I wouldn't be. So this is your traveling song, my love, I hope you find everything. Abbiamo parlato di territori, abbiamo parlato del rapporto tra il locale e Bruxelles, abbiamo parlato anche di emergenze, temi centrali di quello che sta accadendo in questi giorni nel Mezzogiorno d'Italia, dove c'è una visita di più giorni della commissaria Corina Cretu, responsabile per la politica regionale. È stata in Campania, ha visitato Pompei, c'è stato un dialogo con i cittadini e proprio in queste ore invece è a Norcia e a Cascia per vedere anche i luoghi colpiti dal terremoto. Del significato di queste giornate, finché abbiano un sapore che vada al di là anche del mero aspetto politico e formale, ne parliamo con l'onorevole Andrea Cozzolino, vicepresidente della Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo, che è stato a fianco in alcune delle tappe della commissaria. Buongiorno Costolino, benvenuto all'Altra Europa. Benvenuto a voi. Giornate impegnative? Sì, sono state intense, ma anche molto positive, perché abbiamo fatto quello che era necessario fare, cioè andare a vedere laddove abbiamo utilizzato le risorse comunitarie e quali effetti hanno prodotto sul territorio, da Pompei a un quartiere importante di Napoli, di San Giovanni, dove stiamo realizzando un'importante università in rapporto con gli investimenti che Apple sta facendo a Napoli, e poi un convegno con tutti i governatori, tutti i presidenti di regione del Mezzogiorno, per fare il punto sulla politica di coesione e soprattutto sulla revisione della politica di coesione nei prossimi anni. Quindi giornate impegnative ma molto positive. Giornate che avvicinano un po' il territorio all'Europa, i cittadini anche al palazzo, giornate come queste? Assolutamente sì, e io vorrei ringraziare adesso pubblicamente Corina Cretu, perché si è impegnata a fare un lavoro molto concreto, non convegni super preparati, chiusi negli alberghi, ma un rapporto diretto con i territori. E poi parliamoci chiaramente, la politica di coesione insieme agli Erasmus sono state le due grandi politiche che negli ultimi 30 anni hanno reso i territori più vicini alle istituzioni europee, hanno dato identità all'Europa, hanno consentito un rapporto più diretto tra cittadini e il sogno europeo, la dimensione europea. Credo che questo sia il fatto saliente di questi due giorni. Dobbiamo insistere perché la politica di coesione in modo particolare possa continuare a produrre i suoi effetti anche nei prossimi anni. Costolino, il grande progetto Pompei, cosa avete visto? Come vanno i lavori? Come avanza? I lavori vanno molto bene, siamo a conclusione di una prima fase del progetto Pompei. Si può pensare anche di aprire il nuovo quartiere per Pompei, cioè tutto quello che riguarda fuori il sito. C'è una città che riguarda l'area archeologica, che richiede il lavoro straordinario che i commissari insieme al sovrintendente stanno realizzando insieme alle aziende e ai lavoratori del sito. Ma c'è la Pompei fuori dal sito che richiede un impegno, richiede una responsabilità, richiede un investimento ingenti per consentire l'afflusso non solo dei 3,2 milioni che abbiamo raggiunto quest'anno, ma di molti altri milioni di cittadini che possono visitare, stare a Pompei, vivere Pompei, non solo nel corso di una visita al sito archeologico. Quindi c'è tutta una seconda fase che stiamo provando a immaginare e a costruire insieme, e la credo da questo punto di vista è stata fondamentale. È difficile sintetizzare invece quello che è successo all'interno del dialogo con i cittadini, perché è un evento che per natura va a toccare tantissimi argomenti diversi. Se lei fosse un termometro, che situazione ha raccolto? Quali sono state le istanze più sensibili? Ma guarda, quello che mi colpisce è che intanto era una platea di ragazzi e ragazze. C'è bisogno di maggiore informazione, si parla poco e si parla anche male dell'Europa, spesso per coprire difetti e limiti nazionali, sì. Spesso per coprire ritardi delle classi dirigenti locali, e si parla poco invece dell'Europa positiva, delle politiche europee, per esempio appunto dei fondi comunitari. Ma quanti sanno che per esempio in una città come Napoli, grazie ai fondi comunitari, noi realizziamo la metropolitana, rigeneriamo il centro storico, mettiamo in condizione di avviare un'opera di bonifica nell'area di Bagnoli e così via. Quindi io credo che insomma sia questo il terreno su cui noi dobbiamo lavorare di più, sapendo che ci sono ovviamente due cicli di crisi molto pesanti, certo, che hanno segnato profondamente il rapporto tra l'Europa e i cittadini, e che occorrerà mettere mano a profonde riforme, per esempio al patto di stabilità. Ma detto questo, non c'è dubbio che dobbiamo mettere l'accento di più sugli aspetti positivi che la politica di coesione, per esempio, ha messo in campo in questi anni. Certo, che sono comunicazione, divulgazione, ma anche formazione per spiegare, sì, la grammatica dell'Europa, dei fondi. Non solo, ma sono ingenti risorse che noi impegniamo nei territori, sì, che richiedono un controllo democratico, sia nella fase di programmazione, sia nella fase di attuazione, sia nella fase poi di governo delle opere che realizziamo. Questo è molto importante. Grazie ad Andrea Costolino, vicepresidente della Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo. Buon lavoro, Costolino. Grazie, grazie a voi. Europostet. il primo EU Industry Day a Bruxelles. Il 28 febbraio l'Unione Europea organizza a Bruxelles il primo EU Industry Day, giornata interamente dedicata all'industria europea, ai suoi punti di forza e alle sfide del futuro. L'evento permetterà a grandi imprese, start-up, innovatori ed esperti digitali da tutta Europa di incontrarsi e scambiarsi esperienze e contatti. La giornata sarà un modo per riflettere sui mutamenti che le attività industriali e imprenditoriali stanno attraversando, anche sull'onda di rapidi cambiamenti tecnologici. I partecipanti affronteranno insieme tematiche come le sfide della digitalizzazione, delle tecnologie pulite e dell'economia circolare. Per informazioni, programma e iscrizioni, visitate la sezione eventi del sito della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ec.europa.eu/italy. È stato citato anche pochi minuti fa da Costolino il programma Erasmus. Lo sapete, quest'anno sono 30 anni di vita di questo progetto. È stata una bella bombola d'ossigeno per questa Europa. 30 anni che noi celebriamo dedicando in ogni puntata un piccolo spazio proprio all'Erasmus nelle sue mille facce. Quella di oggi è una faccia particolare, una faccia che guarda avanti. Si sta infatti tenendo a Genova un Erasmus che vede coinvolti i ragazzi del Senegal, quindi l'Europa che va oltre l'Europa. Ne parliamo con Mamadou Bousso, presidente dell'Unione Immigrati Senegalesi di Genova, che è l'associazione che ha fatto da intermediazione tra l'Università di Dakar e l'Università di Genova. Buongiorno Mamadou. Buongiorno. Cosa sta succedendo a Genova quindi? No, a Genova questo dimostra che Genova è anche un paese, una città accogliente, perché è la prima volta in Italia. Ah, è la prima volta in Italia che c'è uno scambio di questo tipo? Del genere, proprio sì. Erasmus di questo genere è la prima volta. Quanti ragazzi, quanti studenti sono gli studenti coinvolti? Allora, per gli studenti coinvolti per il momento sono 4 che fanno economia. Per noi è stato un grandissimo successo perché, essendo un organismo che lavora sulla cooperazione tra l'Italia e il Senegal, sì. Per noi è molto importante. Per esempio, io credo che siamo in coerenza con la legge 125 del 2004, perché gli immigrati, le comunità, i cittadini immigrati possono, che dimostrano di mantenere un legame con il loro paese d'origine, possono giocare un ruolo importantissimo nel campo della cooperazione internazionale. E noi siamo su questa prospettiva, valorizzando i senegalesi che sono nel diaspora e cercano di mantenere questo legame con il loro paese d'origine. Per noi questo progetto è una grandissima soddisfazione a livello tramite i due paesi, tra il Senegal e l'Italia. Mamadou, ti chiedo la cortesia di tenere la cornetta un po' più vicino, perché ogni tanto c'è il telefono che fa strani suoni. E, studenti di economia, principalmente. E giurisprudenza, okay. Per il momento, sì. Perché abbiamo siglato questo accordo tra l'Italia e tra l'Università di Dakar e quelle di Genova. Per noi è un'esperienza veramente molto, molto, molto soddisfacente e molto interessante. Rimarranno per quanto tempo? Per quest'anno scolastica fino a giugno e poi sicuramente quando andranno in Senegal hanno tante cose da raccontare sull'Italia, come l'Italia, come studio anche qua in Italia. Sicuramente. Mamadou, come sono state le prime settimane? Come è stato l'inizio di questa avventura? Allora, l'inizio per questa avventura, come loro non sono mai stati in Europa, erano un po' con questo clima molto freddo, e erano un po' spaesati, però piano piano si abitueranno, soprattutto con i nostri aiuti, sicuramente si abitueranno a affrontare anche le sfide che li aspettano. Eh certo, poi insomma c'è anche la lingua, però insomma questo è l'Erasmus, no? È comunque contaminarsi. Erasmus anche serve questo, a imparare un'altra lingua, conoscere altre persone, e avere altre competenze, altre capacità, serve anche questo obiettivo. Buon anno scolastico, grazie a Mamadou Busso, presidente dell'Unione Immigrati Senegalesi Genova, che è appunto attore e protagonista di questo scambio tra Dakar e l'Università di Genova. Buon sabato, ciao! Europost-it. Premio giornalistico Lorenzo Natali. Attenzione giornalisti e aspiranti giornalisti, la Commissione europea ha indetto il premio Lorenzo Natali 2017, che ricompensa i migliori lavori giornalistici sui temi dello sviluppo e dell'eliminazione della povertà. Lanciato con l'hashtag Tell My Story, il premio giornalistico Lorenzo Natali, giunto alla sua 25esima edizione, premia le migliori tradizioni del giornalismo, quello che dà voce a soggetti che rimarrebbero altrimenti inascoltati. Il premio, che ammonta a 5.000 euro, sarà assegnato ad un giornalista dilettante e a uno professionista, in diverse aree tematiche. Le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito della Commissione europea ec.europa.eu/Italy. Le candidature dovranno essere inviate entro il 10 marzo 2017. Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, euroenteplus.eu oppure radio24.it, il nostro sito da dove poter riascoltare la puntata, scaricare il podcast e trovare come sempre tutti i contributi extra, e anche voi potete segnalarci progetti, idee, iniziative a carattere europeo. La nostra mail la conoscete, l'altraeuropa@radio24.it, oppure mi trovate su tutti i social, il mio account @ Federico Taddia. Proseguiamo con gli ospiti, come sempre la cultura grande protagonista del nostro programma, perché crediamo che sia insomma un modo bello, sano, divergente, formativo nel senso alto del termine, per creare e divulgare spirito europeo. La cultura può passare attraverso anche il teatro. Diamo il benvenuto a Paolo De Lorenzi, direttore del Centro Diego Fabbri di Forlì. Lo abbiamo già conosciuto in passato quando insieme a lui abbiamo lanciato un premio europeo di scrittura teatrale pop trama, e premio che si è concluso. Buongiorno Paolo, ben ritrovato. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti voi. Ci siamo già conosciuti qualche mese fa per lanciare questo progetto, il progetto di Europa Creativa Pop Drama, che prevede non solo la valorizzazione della nuova drammaturgia, ma soprattutto il coinvolgimento degli studenti universitari di tutta Europa. Com'è andata? Sono arrivati oltre 300 testi, vero? Quindi, sono arrivati oltre 347 testi da tutta Europa, rispetto ai quattro paesi coinvolti, Italia, Spagna, Inghilterra e Romania. Abbiamo raccolto appunto tante opere teatrali, ogni paese ha creato una giuria tecnica che ha selezionato un testo per ogni paese, un primo, un secondo, un terzo posto, e poi vi è stata la traduzione dei finalisti per ogni paese nelle altre lingue. Vi è stato poi un ulteriore passaggio, perché ovviamente questi testi sono stati rappresentati in forma di lettura drammatizzata di fronte a una giuria appunto di studenti. Circa 1.000 studenti hanno visto quasi contemporaneamente nei quattro paesi le quattro letture, nei testi nella lingua di ogni paese. Quindi è stata una grandissima partecipazione degli studenti, che hanno votato alla fine il primo testo vincitore del premio Pop Drama, che è risultato un testo italiano di Gianni Sterzano, Donna di Cuori. Ne ascoltiamo un brevissimo estratto. Oh, Angela, mamma, ma non lo senti il bambino da là che piange? Angela, ma che hai fatto? Ti è venuto un colpo di sonno? Ciao, mamma. Mi sono messa un po' sulla poltrona che ho sto mal di testa da ieri sera. Sono andata a dormire con il mal di testa e mi sono svegliata peggio. Tengo le botte in testa. Vabbè, statti, non ti preoccupare. Vado a vedere io il bambino. Grazie. Comunque mi alzo. 5 minuti. Questo è un assaggio del reading Donna di cuore di Gianni Spezzano. Paolo, non era richiesta che... non c'era la richiesta che la tematica trattata dall'opera fosse prettamente europea, o sì? No, c'era una richiesta su quelle che sono le dinamiche, le principali tematiche che in questo momento stanno coinvolgendo anche il mondo europeo, che sono soprattutto l'esclusione sociale, che sono soprattutto quello che è la vita umana, i rapporti interpersonali. Questa era un po' la dinamica generale. Sono giunte appunto 347 opere che hanno trattato tantissimi argomenti. Nel nostro caso Gianni Spezzano ha vinto grazie ad un testo che rappresentava appunto questa, è un percorso di questa famiglia che viene assalita proprio dal gioco d'azzardo, con questa donna, Angela, che cerca di riportare in testo questa famiglia distrutta appunto dal gioco d'azzardo. Comunque tematiche molto interessanti che hanno colpito moltissimi giovani di tutta Europa, c'è stata una partecipazione fortissima, con una grande volontà poi di proseguire in questo percorso. Insomma, obiettivo raggiunto sia per quanto riguarda la creatività nell'ideare questo premio, ci vuole anche creatività poi per accedere a quelli che sono i fondi europei, ai finanziamenti europei, anche per iniziative che sono nuove, che siano divergenti, e il vostro aveva tutte queste caratteristiche. centrodiegofabri.it per tutte le informazioni, lì si può trovare anche il testo, credo, vincitore. Si può, sì, adesso le do anche un altro indirizzo che è www.popdrama.eu, che è proprio il sito ufficiale di Popdrama, su cui verranno pubblicati prestissimo sia i video di tutte le rappresentazioni, i reading che sono stati appunto creati in tutta Europa, sia verranno pubblicati tutti i testi. Fino a raggiungere 30, saranno pubblicati 30 testi teatrali, cioè tradotti, e anche i primi, i secondi e terzi classificati. Quindi proprio per valorizzare la nuova drammaturgia, avvicinare i giovani al teatro e dare un respiro nuovo all'Europa, con questo modo di stare insieme in contatto attraverso il teatro. Grazie a Paolo De Lorenzi. Ciao Paolo, buona giornata, buon sabato. Buona giornata anche a voi, grazie. E noi passiamo dal teatro al cinema. You can get inspired by other voices and then celebrate them, you know, it's a spectacular. I have 1 minute, they say. Accept diversity and not accept just uniformity. E lo facciamo andando con questo audio che ci accompagna sul red carpet della Berlinale. Si è aperta giovedì la 67esima edizione del Festival Internazionale di Berlino, in programma fino al 19 febbraio, dove l'Europa è presente come tematica, ma è presente soprattutto con i film finanziati dal programma Media. Sono quasi 25 i titoli finanziati in parte da questo progetto che appartiene ad Europa Creativa, 25 film nelle varie sezioni, 8 tra quelli in gara per l'Orso d'Oro e d'Argento. E per capire quello che è il clima e quello che sta succedendo a Berlino ci colleghiamo con la collega Cristina Battocletti, che sta seguendo il Berlinare per la domenica del Sole 24 Ore. Ciao Cristina, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Lo sappiamo, stavi guardando un film, ti abbiamo fatto uscire, non lo capirai adesso, quindi mancherà una recensione. Allora, Cristina, come sta andando? Allora, bene, devo dire, anzitutto perché si rispetta l'anima del festival. Gli anni precedenti era stato il solito festivalone con dei grandi colossal che non rispettava quella che era, diciamo, la struttura del Festival di Berlino, di scoprire nuovi talenti e di indagare soprattutto ad est. E invece quest'anno ci sono state delle sorprese stupende, tipo il film ungherese che ho visto ieri mattina, ho intervistato oggi la regista, veramente un prodigio, e poi stamattina un film che si chiama Felicité, che invece migrava sull'Africa. Quindi temi strani, temi che non vedi nelle solite sale, e quindi meno male, sono contenta. Mm-hmm. Qualche sorpresa o qualche delusione dai primi giorni, anche se insomma è da un paio di giorni che è iniziato, quindi... Beh, sì, allora io posso dire una grande delusione è The Dinner, che insomma, Ariele ha raccontato, ha fatto un gran mischione all'americana su quelle che sono le tematiche della emarginazione sociale, che poi riprendeva tra l'altro un film italiano di Ivan Di Matteo, raccontava insomma le famiglie distrutte americane. E poi invece On Body and Soul, dicevo prima, il film ungherese, che è un film molto surreale, racconta la storia di un capo del macello che si innamora dell'ispettrice e tutti e due fanno gli stessi sogni ogni notte. Quindi praticamente si salutano la notte e la mattina dopo si dicono che cosa hanno sognato entrambi, e è sempre lo stesso sogno con un cervo e la femmina del cervo. Cristina, è al di là di quello che passa per le sale che Berlino hai trovato, che Berlino ti ha accolto in questo festival? Allora, è una Berlino sempre con tantissimi giovani, e questo, diciamo, comincia a essere veramente una nota diversiva rispetto a tutti gli altri festival, in cui l'età dei critici aumenta sempre di più. Perché? Perché diciamo c'è poco ricambio. Invece a Berlino, poiché anche il costo della vita è molto basso rispetto anche alle altre sedi di festival, ci sono tanti ragazzi che vengono, comprano il biglietto oppure vengono a provare a fare le prime critiche e sono ben accolti. Le cose sono sempre ottimamente organizzate, molto freddo, la popolazione è fantastica, secondo me ci sono questi animali singolari molto dispari, strani, dark, che girano qua attorno, il red carpet è molto dimesso, questo può andare bene o male, però insomma, diciamo, rispetto allo spirito sobrio del festival. Perfetto, raccontaci le tue prossime 48 ore, cosa hai in agenda di imperdibile? Allora, anzitutto volevo raccontarvi forse il film d'apertura, perché è uno di quelli finanziati dall'Unione Europea, sì, certo. Se volete, Django, che racconta appunto della vita del musicista Django Reinhardt, che era nato in Belgio ed era rom, ed era uno dei pochi che non era perseguitato sotto il nazismo. Il film in particolare prende il periodo di tempo che va dal 43 al 45, in cui lui suona a Parigi, e a un certo punto arriva un manipolo di nazisti che dice adesso viene a suonare in Germania davanti a Goebbels e magari davanti a Hitler per rafforzare il morale delle truppe in partenza, e però devi assolutamente purificare la tua musica, nel senso che non devono esserci strumenti non ariani, e questo già di per sé è una cosa abbastanza assurda, già la richiesta. Non deve esserci troppo allegro, non devono esserci troppo presto, devi togliere gli elementi di musica negra, tra virgolette. E Django chiaramente li manda a quel paese, però iniziano i veri problemi, cioè la persecuzione. E quindi è un film non tanto bello dal punto di vista cinematografico, perché è molto classico, anche con degli elementi retorici, però è importante perché racconta la persecuzione dei rom, ce ne sono pochi, il trend V, questo invece focalizza molto bene, quindi a tratti è commovente, diciamo non è che sorprende proprio dal punto di vista cinematografico. Uh-huh. E poi che dire, adesso stavo vedendo un film su Giacometti, sì. Un altro film finanziato dall'Unione Europea è quello sul grande artista tedesco Josef Beuys, che è fatto da André Weil, e che si interroga sull'enigma dell'arte contemporanea attraverso le opere di questo artista tedesco, che faceva un coniglio morto, un coyote, un cavallo, gli alberi, addirittura 7.000 alberi. E diciamo il rapporto estraniamento tra questo individuo assolutamente confuso, astratto, geniale, e il mondo dell'arte, che invece cominciava a produrre molto molto movimento economico. Insomma, tematiche molto diverse, però che raccontano tante facce di questa Europa che è stata e che è. Grazie davvero a Cristina Battocletti, vi ricordo che potrete leggere tutto ciò sulla Domenica del Sole 24 Ore. Ciao Cristina, buon festival. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Bene, arrivederci. Ci fermiamo, un Europost-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. La mostra Archaeology and Me a Palazzo Massimo. Amate l'archeologia? Vi siete mai domandati cosa pensino di questa materia i cittadini europei? Palazzo Massimo di Roma ospiterà fino al mese di aprile Archaeology and Me, una mostra a cura di Rita Paris e Maria Pia Guermandi, nata come una riflessione sull'archeologia nell'Europa contemporanea. La mostra è uno dei risultati del progetto europeo NURCH e intende indagare la percezione e il ruolo della ricerca archeologica nell'Europa contemporanea. Archaeology and Me non è solo un'esibizione da visitare, ma vuole essere anche un'occasione di partecipazione, dove visitatori veri o virtuali potranno esprimere le proprie riflessioni, domande, commenti sull'archeologia e i temi collegati. Tutte le informazioni sul sito archeologyandme.eu. L'altra Europa. Your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time that I return. Un progetto di sviluppo territoriale a scala europea, finalizzato alla valorizzazione turistica integrata di itinerari culturali e di pellegrinaggio, tra gli obiettivi è quello di tradurre l'itinerario in un segno di identità, ma anche uno strumento di promozione culturale del territorio, che porti un suo indotto di quel turismo sostenibile, turismo integrato, turismo attento, turismo lento. Sono i Cammini d'Europa, camminideuropa.it, per conoscere il progetto. Da un paio di settimane è stato eletto il nuovo segretario generale, Federico Massimo Ceschin, che è qua con noi. Benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Allora Federico, al di là delle parole, al di là della vocazione, al di là di quello che appunto dovrebbero essere questi Cammini d'Europa, cosa sono oggi? Beh, i cammini oggi sono una straordinaria opportunità, l'abbiamo detto forse con largo anticipo, ma oggi sono davvero sul piano dello sviluppo uno degli acceleratori e dei catalizzatori più straordinari che abbiamo a disposizione, perché nel frattempo sono cambiate moltissime dinamiche sociali e di mercato, è cambiata la domanda del turismo, che anche pochi giorni fa abbiamo sentito su scala internazionale definire il turismo di massa come il turismo del passato, un turismo che non c'è più. Oggi andiamo nella direzione di una domanda di autenticità, di lentezza, di esperienza e di emozioni che soltanto nuove forme innovative di viaggio appunto possono rappresentare. Quindi diciamo un po' quella che da giovani, da ragazzi e poi da adulti abbiamo trovato nella letteratura di viaggio, dei grandi viaggiatori del Settecento, dell'Ottocento, sta tornando ad essere una straordinaria occasione di movimento delle persone da un lato, dall'altra per i territori significa declinare la propria offerta in maniera completamente diversa dal passato. Sì, assolutamente. E tu sei direttore anche del Parco Culturale Ecclesiale, Terre del capo di Leuca, dei Finibus Terre. Stiamo parlando di turismo prettamente religioso, o il turismo religioso è un pezzettino, una parte di questa tipologia di persone in movimento? È un segmento di persone in movimento estremamente interessante, perché appunto il viaggio, per come lo conosciamo, è nato come pellegrinaggio, no? E quindi se oggi in qualche modo c'è un orientamento di scoperta, forse ripartire dai nostri valori fondanti può essere a sua volta una straordinaria nuova motivazione. Il pellegrinaggio spesso ha cambiato nel tempo la sua funzione, la sua vocazione. Naturalmente la nascita dei parchi culturali ecclesiali risponde proprio a un'esigenza della Conferenza Episcopale Italiana di riuscire a rispondere alle domande che più di ogni altra vedono anche la Chiesa ormai protagonista, ovvero capacità di proiettare le giovani generazioni verso una vita professionale e personale con maggiori certezze e con maggiori traguardi, con traguardi più alti, se vogliamo, di quelli che attualmente sono riscontrabili dai nostri giovani, tassi di disoccupazione e soprattutto lo dimostrano. E Federico, uno pensa, insomma, cammino d'Europa, pensa immediatamente alla via francigena, ovviamente. Certo. Ma quante sono le altre possibilità? Cioè, esiste un numero in chilometri, in itinerari? Esiste una fotografia dei cammini d'Europa? Sì, sì, assolutamente sì. La rete dei cammini d'Europa è una rete molto estesa. Naturalmente il pensiero corre giustamente a Santiago e alla via francigena, proprio perché sono le prime riconosciute oltre 20 anni fa all'interno di un programma del Consiglio d'Europa che si chiama proprio Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa, e quindi sono, diciamo, le più consolidate e anche le più praticate dai camminatori in questi due decenni. Oggi naturalmente questa rete è molto più ampia, gli itinerari riconosciuti sono ben 32, interessano tutti e 28 i paesi dell'Unione e molto di più, perché il Consiglio d'Europa è a confini molto più ampi dell'Unione Europea e abbraccia 45 paesi, ovvero tutti i paesi che hanno sottoscritto la Carta dei diritti fondamentali dell'uomo e che confinano, diciamo, con l'Europa a 28. E quindi, come dire, è uno straordinario programma di interculturalità, di dialogo interreligioso e di conoscenza approfondita, come dicevo, della cultura europea, dei tratti identitari comuni dell'Europa, di questa Europa di cui troppo spesso parliamo per motivi bancari o finanziari o fiscali, e troppo poco ci accorgiamo di quanto abbiamo in comune con i nostri vicini, diciamo, e con i nostri fratelli europei. Per cui questo programma è un programma che oggi vede riconosciuti, come dicevo, 32 itinerari, la rete è molto diffusa. In Italia mi piace poi evidenziare che, proprio per la natura storica, certo, e territoriale, morfologica anche del nostro paese, è profondamente immerso nel Mediterraneo, ma è una lunga passeggiata verso l'Europa, diciamo. Passeggiata tra l'Europa e il Mediterraneo, ha anche una serie di altri itinerari che non sono riconosciuti dal Consiglio d'Europa perché non hanno il criterio della transnazionalità, ma che sono assolutamente straordinari e che attraversano le aree interne del nostro paese, connettendo quindi quelli che sono i grandi centri d'arte, i grandi centri di spiritualità, anche alle aree che abbiamo finora sempre definito minori, ma che sono la vera riserva di valore che il nostro paese oggi può mettere sul tavolo. L'Appennino, l'entroterra con la sua dimensione dolce, la qualità della vita di provincia, lo sviluppo rurale, non dimentichiamoci, insomma, che siamo stati un paese agricolo fino a una generazione e mezza fa, non possiamo improvvisamente dimenticare, esatto, dimenticare, abbandonare, esatto, dallo sviluppo industriale abbandonare l'entroterra. Va bene, vi invito ad andare a visitare il sito camminideuropa.it. un grazie a Federico Massimo Ceschin, nuovo segretario generale, in bocca al lupo per il nuovo ruolo e buone camminate, Federico. Grazie. Grazie di cuore, buon cammino a voi, ciao. Buon sabato, e questo buon sabato va a tutti voi. Un grazie alla squadra, Valeria Bernardi, oggi alla parte tecnica, Claudia Schiattoni in assistenza, Silvia Righini e Miriam Lucchetti, che con me hanno scritto la puntata. Radio24.it il nostro sito, l'altra Europa @radio24.it invece, se volete contattare la nostra redazione. Noi, come sempre, ci ritroviamo qua la prossima settimana. Ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.